sente male, chiamo l'ambulanza. È vero. Evi, chiamali. Che si sente male. Aspetta, faccio entrare al gufo, aspetta. Ma messo a posto la pietra su. Ehi, e cosa era lui? Il pellet. Ah. Accendi, comincia a esserci un po' di umidità. Sì, dalle tre è accesa. Addirittura. Le tre. Beh, no, mi sono messo la salta adesso io. Cazzo, si sa, va bene, in caldo dentro il letto, coperto. Oh, ya. Dopo quando arrivi il caldo ci lamentiamo. E beh, sono dalle tre adesso. Già, sono già le cinque. Ci dovrebbe essere già caldo. Sì, alla fine si sta bene, dai. Ehi, quando c'è freddo si accende, la gente. No, devo morire freddo. E la sera giubilata, ma da sala è sudata. Lo saranno. Ma tu mi sei già Graziano e a Luca ad accendere. Sai che attendi. Ehi Graziano, sarà appena a buio, ma caso lo battezzi. Forse non ha accesa ancora. Ah, così è. E allora lui si mette il piede a molle e c'ha caldo, capito? Ma lui l'accende appresso, diceva, dall'una e mezza l'accende, così che... Ah, se è più freddo è di muro. Vabbè, è anziano, capito. Ah, te sei già anziano, cosa vuoi fare allora? Vabbè, ma sono due anzianità diverse. Se mi dici, se ho delle patologie diverse, va sul discorso. Lo so, ma a differenza, sono due anzianità diverse. Sì, ma avrà una sessantina l'anno, una cosa del genere, 65. No, mi sa che ne ha 45, grazie. A ogni bivi. L'età mia, c'ha. Ti ha pensato che se dai, a vivi, a 60 con l'età. No, 60 è lui. Oh, yeah. Famone! E passa il bus per lui, l'ho sentito. Io ho mai entrato, lo intende. Famone! Io c'è ancora masticati i singosci di pollo e i salsiccioni ancora. Famone! Oh, c'è la riga, ti sei farata. È un comodo. Saluta Gio Maria. Che è Gio Maria? No! Che è Gio Maria? Saluta Lorenza. Andiamo! Buffo! Parli lo schifo, si è ancora le vendere i biatti! No, li stavo facendo mandando della roba su WhatsApp. Ah! Ebbene, guardate quelle due questioni, ho investigato così. Ma te l'ho detto? Costavano, mi sembra, una 20 e l'altra 10. Ah! Una 20 e l'altra 10, mi sembra. Normali, no, tutte e due normali. No, è normale, costa sulla decina. La maggiorata costa sulla ventina. E allora facciamo arrivare, Edu. Li facciamo arrivare. Ebbene, dormiti siete, Luca. Aspetta che sta entrando Gio Mari, sta entrando Graziano. Pippero. Non è fai una cacciabullata, no. Oh no, che fra forza fa vedere isso. Ah, vedo me. Atta, ragazzi, fagli le dire a catta. A capo, le denti. Mi dia la riata a capo, vedo. Tutti chi si dà che fai una parata, cazzo. Cazzo, è sempre progettente, cazzo, vendendo. Cazzo, chi c'ha voce a zimmi? Allora si può tirare in banca, buro. E fatti bene. Cattaremo da un po' a noi, che non avremo, cazzo. Ah, fino, Vigio Mario, un poco, mi. Sempre andendo, poco, sempre andendo. Sì, qua che si ferma. Qua che si ferma. Lì, però, fattano i pliccano. Ma con la magnesia va a serlo. Sì, secondo me sì. Ma non riusciamo a sigare, che è troppo corriata questa cosa. Beh, non lo so chi. Ho capito, è troppo. Se lo voglio posso anche masticare io, dopo glielo do. Non è un problema quello, no. Non si mangia troppo, da poi fate male per le calasci, che a forse c'ha masticato il baedo. Anche, perché? Peppa! Ah, scatta lo pescio! Scatta di trutta! Scatta di pulparu! Siamo ripiati, no, i boccaccini ripieni, no. Oh yeah! Ripeto, cuffetta! Ciao, Mari! E beh, io! Sono io, è ora di entrare! Ah! Ora di entrare! No, stavo facendo cosa, stavo mettendo a posto qua. Adesso mi piglierà la bustina. Mi la devi abbigliare la cena, Bruce. Mi la devi abbigliare di cucciolo di G. Adesso me la prendo. La so con i sciocchettini. E lui, mi diceva che Gio Maria c'era, boh. E a sai che mi metto la bustina con l'acqua. Ci sono poi un'ora di ritardo, boh. E bello, chef. E io, e beh. Aspetta che mi prendo questa bustina. Vabbè. Ma per l'amore di Dio, grazie! No, mi sto prendendo la bustina, che c'è la bustina, va a un sauro di gazzina, bari gazzina, ma... Oh, Gazzettina. Luca, hai parito? Ah, io sono qua. Forse ti riferisci all'altro Luca, boh? L'altro Luca è a mezzo della televisione. Il sacchetto tra i occhi, L'altro Luca sta sempre scogitando, lavorando, drumiti, drumiti, chi ti è apparato, sempre ventenne, non lo sai che cosa, come ci si chiama Luca, quell'inventore, Altengerg. Archimede è diventato Archimede, chiatta, l'inventore. Adesso lo chiameremo Archimede Inventore, va bene, grazie, a glielo attacchiamo. Mamma mia, canta in mare, capucci. Oh, io ci abbiamo una subocudeva. E cosa è mala? Sì, c'è bustina che mi deve pubblicare ogni aria zinco e me la so come si andava. Pari saore di cimento. Mai hai assaggiato un bivano sul cimento, quando faccio un sacco e faccio un bivano e ti arriva a bocca, non mi stessi saori, va. Ma tutto fa brodo, grazie. Vai a andare, non ti arrivi niente. Mamma mia, pucci, pucci, e ci abbiamo lasciato un po' qui, ma per carità, mamma mia. Se per la mettere, si mette a bere la Luca, non si la mette mai, gatto. Avvio, solo giù di la mente, gatto. Luca, cosa stai facendo? Illu! Tu sappiai da invitava a te, la bustina. A piedi, data la stufa, A chi si aveva freddo a piedi? Alla sta posto di bene, data la stufa. E poi c'è il in cucina, c'è la faccia, però freddo freddo non ce n'è qua. Si sta bene, no? Per 23 gradi. A che ora l'hai assesa? Alla una, quando sono rientrato. Atta, bebù. Luca, se sei tre, ed è ancora una già assesa. Fra poco l'attendo. Fra 5 minuti l'attendo il bus. No, io l'ho accesa a quell'ora, vero un freddo quando sono congiurato. Sono andato a prendere qualcosa all'Eurospi, poi a questo dei detersivi qua a Predaneta. Cosa si chiama? Risparmio casa, che vende i detersivi, un po' così tutto da vicino a Oppo mi pare che. Questo freddo si è uscito, E stamattina ci sta piovendo, stava piovendo, poi verso mezzogiorno e mezza ha cominciato a fare qualche goccetta. Io stavo bene, va via, Luginsi, la felpa, e il giubbotto, e il cappello, e buh. Vai a tornare a Modinare, va. Boh, non lo so che non mi sono cacciato. Boh. Dai, vai. Luca, passate del freddo. A me, dove ne è freddo in occhio? Piovendo a dirotto, eh. Un bel sta piovendo, Luca, lo vedi tu, io non lo vedo da qua. Piovendo sta. Ha messo tutta la sera e tutta la notte. Domani no, ma sa sera e salotte ha messo acqua, Io ho visto che tutta la... cioè, sino a martedì o mercoledì mi sembra la... capo suo, Eva, mi pare che ha già detto così. Lasciamola fare, cioè. Sennò da voi non ne fate più, Lasciamola fare, che fenni, se lo dici qui siamo male da voi. Chiaro grido, meglio che fossi a va, da voi hai chiuso, avremmo a vedere come ci sarà, La primavera, anche se primavera, le ornate così le fa sempre, capito? Però da voi che ci sono solo i casi, E per Luca, oggi cos'hai pranzato di buono? Dimmi, poi ti dico io. Faccia ciutta. Faccia ciutta normale. No, io mi ho preso... cioè, già ce le avevo qua, ma ne avevo un pacco solo. Quelle fettuccine... spinaci e fettuccine all'uovo che sono mischiate, tipo le lasagne, però sono più fine, insomma, un po'. E mi ho fatto il suo col salciccione. Buona legge, se riesci, da succiadura. Oh yeah! va bene, un po' di pasta asciutta, poi c'è la rolata, il pollo in forno, l'insalata, la frutta, cosa vuoi di più? E i dolci, no? I dolci sono mangiati. A secondo, avete fatto una figlia di patate con la metà della metà di un agnello, con una testina, poi vela la melanzana, c'era. E poi a me mi era rimasto un pezzo di pizza da Rinotti, un pezzo insomma un po' grandetto, che mi ho preso la pizza di notte. Quella chiusa, come si chiama, il cartuccio, boh. E mangio giù di vista e mangio mangia di vista. Era così buona, Maria appena sfornata dal forno, che pizzeria. E ho mangiato un pezzo di tiramisù poco fa. Però quella comprata da Europie, che sarà 15x15 a quadrata, la metà me l'ho mangiato poco fa. La mangiamo la meredina, invece no, meredina non vedeva la giù, per la chiesa manco mi lamentava, ci vedeva la metà me la giù mangiata. Giovanni, dove l'hai comprato? Guarda, ti tirami su. Dove? Che negozio è? La pila ho presa, mi sembra che sia 15x15 la scatola, capito? È buona, è veramente buona, da la pila l'ho presa. Ho capito, ma diciamo che la pasta alla fine, mamma mia, no, non mi si fanno a me. Che bastardi che siete, però. Io me l'ho presa qualche volta, già è buona invece, Luca, già è buona. No, come frutta mi ho mangiato l'arancio io, un bel arancio, metto un teccio, fresco, era ghiacciato, ma lì ha bucato da frigorifero. E il dolcetto me l'ho mangiato poco fa, ne ho fatto un caffè con tutta la schiumetta, con la macchinetta, mezzo gaglio e il dolcetto. No, frutta non ho mangiato niente, gli faccio io, nulla. Un attimo, già l'ho mangiato, con la banana mi sono mangiato, boh, sì. Così che poche niente, pezzi di pollo fatto con le cipolle, con le olive e la pasta asciutta. Pollo, no! A battere mi sembra che l'ha fatto Paoletta. No, però l'ha fatto nel fuoco, col carbone, nel barbecue. A mamma lo devo comparare, si è sgangherati su barbecue. Ciao Mari, si è frasegato sotto e si è rotto il gancio che mantiene il piede, no, per rimanere sopra. Ha buttato un pezzo di legna, infatti, stavolta gli ha messo un pezzo di legna, barrigi dritto, barrucchi la frasi. E l'ho visto poco fa, su internet, bello è bello davvero. In offerta, sconti di primavera, costava 189 e viene 109 euro. Ma meglio mi va pure il rosso, il ripiano, l'ugufacu, il cassetto per la... A capo, visor medio, A capo, bello, bello grande, capo, bello veramente. Se c'è una piazza grande e due piastre a fianco, dopo puoi appoggiare più c'è il coperchio con l'attrezzatura, forchetta, cucchiaio e tirabuzzo, come cavolo si chiama, bello, ma è grande però, mi sembra 99 euro, l'ho visto a capo l'altro giorno. Bello veramente, poi è roba grossa, non è l'amerino fine fine, capito? È quello che conviene, perché quell'amerino fine fine si rimagna subito il fuoco, mentre invece quello grosso dura è. E poi la piastra è di ghisa. Dopo l'hai visto da Carrefour, ma su o giù l'hai visto? Oh, giusto, come ti tremo, gatta, come ti tremo a metà, gatta, di quasi di fronte alla pescheria, di fronte alla pescheria in questa zona, allora chi sei, quando è? Ieri, o a partire, ieri. A partire l'ho vista, due ce n'erano, ma belle, veramente belle, e poi grossi, gatta. No, le finirà non faggio, i vini, ho preso i detersivi, ma so come te dici, sono la mirini fini fini, e parli i giocattolini, e come te dici, vabbè, questo mi già mi è durato, più di un annetto mi è durato. E maestro si è praticato come paletta, lo bagnava per spegnere il fuoco, poi lo lagava così e si è praticato, poi che l'ha sudato, che l'ha preso, lo tappava con la buccia e si è praticato malissimo. Invece quello che ho visto su cosa, c'ha il cassetto, una volta che tu hai finito di cucinare, per dire, fai consumare tutto il carbone e quando è freddo ne leggi il cassetto e svuoti il cassetto, capito? C'ha un cassettino sotto, estraibile. E chi so andava? E poi va un gufo. Ah, è quello che ho visto io è diverso, io non c'ho posto, capito? Il terrazzo non ci sta nemmeno, se no l'avrei preso. Però è un oggetto bello, è un oggetto bello veramente. Basta passare per domani a Carrefour, se non si sarebbe buttato, venivano i due, veniva uno che costava 100 rotti, invece l'altro era 99 euro, era appena più minore, però roba grossa, si vedeva che era robusta, l'anno è la mirino fini fini, capito, grazie. Dice, bisogna mettere queste cose, chi fa i due, è chiaro che è da mirino, da meno di un anno, chiaro. E si pratica già sì, certo, ma lo praticassi può di chi si ne zingabbi, allora si lo mettessi fra cieli qua giù, tonto, cazzo è zingato, si brucia da male, poi grosso è, allora su, dura volte rendai. Già lo so, infatti io vorrei abbigliare chi su internet. 109 euro, già è bello, già è grosso, anche quello che c'è su internet. Però vai, mi ha detto che beh, così, ma cosa c'ha? Le ruote ripiana al fianco il legno, c'ha. Poi c'ha il coso, i gancetti dove appicchi l'ubici, l'ugoso, insomma, li drutti là, dimmo. Sono grandi, grazie, sono grandi. Beh, delle ruote non ci ho fatto caso veramente. ti credi, non l'ho guardato proprio bene bene, però sono grandi. Delle ruote non ci ho fatto caso, però ho visto che sono veramente belli. Voi basta andare a vederli, capito? Non costa niente, una passeggiata, si vede. Sono di fronte a Rugosi della gara, della bestieria rimane, capito? Vedi due, belli veramente. Già ci vado domani a guardare, a vedere. E a chi dice uno salone? Cioè già funziona la cosa, se voglio già lo posso funzionare, già funziona. Ah, è facciato, a me quando è facciato, se l'ha potuto. Non mi piace. E poi dico, gli effetti la minorina, è un giocattolino. Vabbè, già l'ha fatto il suo lavoro, però va, meglio di nulla era. E vabbè. Ma me lo compro, infatti, se me lo compro, me lo compro. Buono, da 13 se non me ne fido. Intanto, ho visto che già lo usiamo qua quando fa le belle giornate. Poi avanti, arrivi il schifo, lo uso di più. Invece vale il forno a bozze i chivi, che esce più buono la carne più saporita, cucinata. C'è qua che non stai uscendo. Ma è facile. E poi, le cose quando si finisce di usare, lo copri, no? Bisogna coprirlo. È chiaro che sono la verina, dopo 80 umidità si frasigheggia, hai capito? Bisogna coprirlo, sennò come si fa, Vedo un po' attore, quello che c'è attore invece non si marcisce mai, gatta. Quello è d'oro, vero to. Buonasera. Buonasera. Cosa non si marcisce mai? Chi se di Graziano? Dipende cosa, i bredi, il gabbo, cosa ne gioco? Su barbecue! Chi si è praticato sotto, ma mi tocca l'ampazzino. Ah, c'è. E tu non vedrai un pezzo di lamiera d'acciaio? No, ma non ne vale la pena, era di quelli piccolini, di chi si di 20 euro, cosa, lamierino fino in fine. Vabbè, per un anno e più già mi ha funzionato, solo che va, pure quando spegneva il fuoco, lì da capo dritto. Che c'è poco di poco, io rimania sudato con la sabbietta, perché a sottofondo ti mette con la sabbietta, capito? E si è praticato logicamente, la mirino fini fini se la mangiate in un anno. Senti, forse va di cantinditi, cazzo, ma hai portato di gira a Galluguiri? Cosa? A volte faccio fatica a sentirti, che sparisce il segnale, mi ho preso. A volte sei forte, a volte sparisce il segnale. Sono di Zenni, giovedì lo trovi alla Lido, il barbecue nuovo. Ma grande, come? Io non ne ho volantino. Insomma, Giubito è da campeggio. Ma di quelli le serie, come? Io non ne ho visto, dovrei visto tu, sul volantino. Sul volantino, però è per giovedì. Oh, tipo come estetica? Non ne passate, no, che c'è volantino. Ah, poi da, per me. No, né mamma né minori. Ma dico, che sa come c'ha, rettangolare, quadrato, cosa c'ha di cose attaccate, c'ha ripiani, non so, cose così. Aspetta un attimo e te lo dico. Guarda a vedere, com'è. Oh Luca, ma va sempre mangiando, sai, o i piedi a caldo ti hai messo? Lu! Ti ha risato i drappuri già. Distruggendola sta, già glielo dico io già, però la vedo. Tia, guarda se c'hai il prima del capo, ci dovrebbe essere, perché lì solito mettono tutti i piedi, grazie. No, infatti ha già mandato, no, per un galaccio. C'ho un depliant della Conant, un depliant dell'Eurospin, e là si gira le lampade, no, che mi si lampano sempre tutto. E il bongo un galaccio, in ogni cosina, a tempo perso me li sfoglio. E la guarda pure i giornali, che vede le pizzali rampato. Non puoi stare sempre a cattare sempre questi giornali, no? Anche quello che cosa ne fai? Volevo scritto la baita di rilampi, no? Sì, no, è a polina la base, cattare sempre pure macchino galascio mi sa di più. Comunque io, e sapere un po' se ce l'ho. Adesso guardo se ce l'ho ti mando, rifaccio la foto e te la faccio vedere. Un attimino, fai così, mandamela la foto. Il fatto è che io mo spesso il giornale, i volantini, li adopero quando levo la busta dalla pattumiera, che la appoggio nel pianerottolo. Qualche volta c'è qualche gocciolina che mi pare è brutta la bianca rossa, allora cosa vuoi? Piglio uno di questi depliaghi, immagino che ha un po' di terra e sopra la puggio la buca. Quando ha dalla parte della montagna si rampa, deplia e montessa. Capito mia, è vero lui, non bisogna fare così per non sporcare. Luca! Tore Luca si è parato sotto i manti. Grazie! Tu sì. Graziano! Dimmi! 48 per fanno affiabili! 48 per 27 centimetri! E poi è anche alto! E ci sta un chilo di carbone! Ehi, è piccolino! E com'è? Quanto è quello che si è rotto che c'ho qua? È un affare così, è quello. Lo volevo prendere un pochettino più grandetto, anche un pochettino più buono, capito? Con la lamiera un po' più grossa, mi ha mangiato baghissimo, nonostante sotto, dopo il carbone, poi c'è una griglia e poi gli rimettevo sopra un po' di sabbia e il carbone. No, aspetta, adesso visto lei. Ad altezza dei piedi è 86, larghezza 84. Beh, 84 insomma è già grandetto. 84 di larghezza, di larghezza. Di lunghezza quanto? Larghezza è 45, è compreso. E ci sta un chilo di carbone dentro. Poi c'è anche il telo per coprirlo. E al limite mi posso un giro a baita via. Quasi cosa, eppure c'è anche il coso, il spiedino lungo, c'ha da 70 centimetri. È quello che ho visto io su eBay. Consegna Amazon, è bello, siccome ci sono gli sconti di primavera e costava 186 o 189 e in offerta speciale l'hanno messo 109 euro, però è bello, caspita, c'è anche il coperchio, c'è un fianco ripiano con delle secche di legna dove appoggi i piatti, poi c'è i ganci dove attacchi i rubici, queste cose così, poi c'è frontalmente in basso un cavatappi, se ti vuoi tappare un'ampulla di birra te la tappi vivi e vi scoprisci. Poi c'è anche un altro ripiano sotto il legno, c'è il cassettino, c'è il manometro delle temperature, c'è la griglia di appoggio quando la levi da sulla griglia. Questo c'è a fianco, c'è la griglia in legno a un fianco, c'ha due palette, i gancetti e più c'ha il coso, la paletta con lo spiedino. Grazie, no, ce n'è uno solo, però si vede quello da prima. Questo che ho visto io è avanti ieri, l'ho visto. Sono due nuovi, capita. E ce n'è uno, ma non quello mi piace. Perché c'ha due bacchette a fianco e la fiastra. Mandamela a vedere, Tore, quello qua c'è il prezzo, non c'è. 24,99 euro. Ma allora è la misino fine, si costa così, come ti dico, pulino valore piano della griglia e legno. Magari andrò a vedere. Ah, è per quello del caffè sono l'ideale, Graziano, perché è roba robusta, capito quello che ho visto io. Ripeto, c'erano due, proprio robusti, si vedevano che era roba buona, capito? Ma a che tipi? No, il sul del piano c'è, ce n'è uno che è il laberino, lo convela per prendere quello lì. Però quello che ho visto io, il catalogo, l'ultimo che hanno mandato, non ce l'ho più. E mandami su WhatsApp chi su chi ti ha detto che vai, non ti piace, a vederlo com'è, vedo com'è, no. Adesso ti mando quello, ma non piace nemmeno a me quello, è piccolino comunque, te lo mando ugualmente, va. Così lo vengono, no, sei come quello che mi ha detto attore, 24 euro, praticamente come questo che c'avevo qua, la mirino. Così si scioglie dentro un anno, Tore, chi ti sei fuso, sta praticando un fondo, nonostante sotto c'era la sabbia con un'altra griglietta che insomma già era abbastanza grossa e se è partito. E dunque me lo compro migliore, là. Sì, sai cosa avevo fatto, grazie. Ma ho buccato una lamiera del coso, di quelli in acciaio, oppure in coso, come si chiama, perché d'altri in ghisa, una lamiera in ghisa, la misura, te la fai tagliare e ve la buoni dentro, e vedo che non si frazzica già più, ve ne avevi uno io. Mi è durato una vita, mi è durato. Ma lo sai cos'è il fatto? Che anche qua nel terrazzo, a me mi sembra un po' di mille un terrazzo enorme, dove c'ho tutte le piante, e noi gli voglio fare una cosa buccicata, io voglio una cosa anche come secca, carina, là. Hai capito? Chi ce lo posso fare in campagna? In campagna c'è il paese vaggio. La carriola, mesa d'ambulana, due gesselli di lavatrice con i piedi di quelle sedie girevoli, a stella. Venne braceri in campagna, ma noi mi buciamo un gesello, ma come me lo vedi, quando vai in anoga a casa, ti magari balletta le basi vedi su cortiletto soio, ti vedi la cosa fea, capito? Che c'è? Ci sono le rotelle, c'è il coso da appoggiare sotto, la tavola da appoggiare sotto, la tavola da appoggiare al fianco, poi c'è dall'altra parte c'è il pendi, come si può dire, il telo, puoi appenderti il telo per pulirti le mani. E poi il copri barbecue. Ma se costa 24 euro, non so se magari è buono ed è un'offerta così. Già ci vado, giovedì c'è quello però, così. Sì, giovedì è, ce l'ho scritto sopra, da giovedì, 11 aprile. Giovedì mi avvicino a vedere, giovedì è 11, mi avvicino a vedere come anche quello. Magari è carino anche. Ci mobiliasse, è bello anche come estetica, capito? Lo posso anche prendere, se poi c'è anche il telo che lo copre, meglio così, tutto incluso. Infatti c'è il telo qua, mi a parte però, costa 5,99 euro, Ruddiro. Ci sono tre misure, ci sono. E più c'è il barbecue. Vedi che un bel di cosa a busta. È molto carino a che vari il rudi burro, se lo vuoi spostare. E allora giovedì ci vado, riprendi tu Luca, che mi aspetto 2 minuti. È arrivato a te, grazie. E adesso lo guardo. Guardalo. Ma quelli che ho visto io sono belli, veramente belli. Questo, se ti piace questo... Aspetta che lo sto guardando. Ma è rimasto il navigatore della tua macchina. È tipo quello che ho visto stamattina da quello dove vendono i detersivi, questo. E... 50 per 38 centimetri, ma praticamente appena appena abbiamo mannito di quello che mi si è rotto. Ma sembra carino, però visto secondo me la mirino fine, pensate sì, poi non c'ha neanche coperchio questo, quello che ho visto là. Su Amazon c'è anche il tappo, c'è un sacco di cose, c'è il coso della temperatura anche, c'è doppia griglia. Ma quello che ho visto io in persona, Vangiri, sono belli, ce ne sono due, uno più grandi e uno più piccoli. Ti sto dicendo che sono veramente belli, e tu che c'hai posto, quelli vanno bene, io posto non ne ho, se no l'avrei preso perché era bello veramente, capito? Ma se andarci e lo vedi e ti renderai conto, se non ci saranno bruciati, è di fronte a cosa, a quello del pesce, rimane, capito? Vicino al corridoio. Ehi, ma questa è una fotografia che è attaccata al muro lì, o è proprio il barbecue? Mi pare una foto. Solo quella foto c'era, non c'era la foto dell'altro. Ah, quello che ti ho mandato io adesso, cioè, le spallere poi dove puoi mettere la griglia, in tre posti la griglia, sopra, in medio e in basso, capito? Ehi, robelline però non è che sia una cosa che dura un'eternità, capito? Vedi quello che ho visto io, catta, quello là c'è la piazza in ghisa, ti puoi immaginare, sono belli veramente, quello è da prendere, tu che c'hai l'orto portale, quelli lì va bene, lo metti lì e sei tranquillo per l'eternità, quello dura, Infatti questo è tipo quello che ho io, c'era anche questo che ho, quello che si è rotto, quel pannello dove puoi alzare più sulla griglia o più in basso, c'ha tre o quattro misure, no, se voglio la metto più in alto, se voglio la metto più in basso. Però ti stavo dicendo, quello che ho visto su internet c'ha un'altra griglia, a parte quella dove metti a cucinare la carne, appena più su, e si chiude, si apre con il tappo e lì appoggi la carne già cucinata per tenerla in caldo, capito? Cucina, ce ne sono tanti tipi, ce ne sono comunque, è tutto sta a vedere, e quello che ti piace ti prende, quello che conviene e che ti piace se lo prendi, capito? Comunque io se fossi te sarei andato a vedere quelli da Carrefour, sempre che ci siano, capito? Perché io l'ho visto avanti ieri, sì, e penso che ci siano ancora. Se no già ce ne sono, di tutti i tipi, che dappertutto li trovi questi buoni, ecco, perché così era prendere uno buono, cazzo, no, questi labirini che dopo un anno non servono più, capito? No, infatti me lo prendo buono, se no da poi di un anno non servono più. Questi già sono bellini anche come estetica, capito? Ma secondo me c'è il lamierino, è fine, capito? Come stesca era carino anche questo che si è rotto. Anche il tutto il resto è nuovo, solo si è praticato lo fondo. Ed è partito il gancio che mantiene il treppiedi che apre e chiude, no? Il cavalletto. Anche se è praticato, se è uscito in ora male a Luganzo, logicamente. E poi lo fondo l'ho guardato. È tutto marcio, non si più, ma domani non piove, Mi butti un sacchetto sul carbone che è rimasta come la rabbia e non posso fare un lavoro, ce lo butto. Uia. Mi se posso utilizzare. E ogni tanto si interrompe la trasmissione, grazie. Basta caricare la batteria. No, è carica la batteria, che c'è il tempo, capito? Allora non funziona più, si chiuda. Ok, un attimo al telefono. Ehi, vedo di recuperarmi il cavalletto che c'è un pezzo di pedana lì. L'elata con due vite lo tratto, tipo tavolino, va. Beh, anda, Luca. Luca, ma mormito sì. No, grazie. Il relax. Che è pizzata? A te bisogna ti chiamo un nome. Qual è quell'animale che dorme un bel ghiro? Vabbè. Tanto domani chi si mi ammazza, travaglio. Ma vai, cosa ti ammazza? Se lo stai frustando a sangue. Tu male da poi tracca che Mimo oggi avrà tornato a Russi, ho visto che l'accampamento, la tettoia ce l'ha ancora sul barbecue. Vuol dire salute di Durni con il vinello rosato. E tound motore. Bella Luca. E che facendo c'è? Luca. Tore, ti ho visto vicino alla chiesa con il cagnolino. Verso la una, là. E la una non la può essere. Prima della una, a mezzogiorno è qualcosa. Vabbè, prima della una, già ti ho visto, già. Ma veramente ti ha visto Baoletta. Ma dici, mi ha attore con Lugano, e mi sono guidato, non stai più visto. A che lo camminello in macchina. Lo camminello prima che fai a Eva. Tore, è uscita! Tore! Arrasuscita! E lui! Ce l'ho sempre lì quella registrazione, Tore, a te la puoi ascoltare. No, là sarà più di che meglio. Caffone! Caffone! C'è il castoro dritto dritto che c'ha Mattore. Vista la B, Vittore. Avanti! Tutto musicato sei scendi, mi. Non si è capito un tubolo. Per la senza batteria. E te lo disegni, per una staccionata in legno e c'è questo castore dritto con le zampette vicino alla bocca. E comincia. Tore, maledizioni, milumi. Ehi, io so così. Non me l'hai fatta niente, me l'hai mandata a Buru. Ce l'ho sempre nel telefonino. Un adesso me la bella e mi posso la risata. C'è anche un altro, tipo quello, però non mi piace come ti favidava, quello che diceva. Quello invece me lo spunto che è bello. Certo. Tipo Luca e me. A Luca gliel'avevo mandato, non te l'avevo mandato lui. Ma io non sono bello, carino, dai. Diviso, però in quattro. Certo. Quello scoiattolo cos'è? Uno scoiattolo che va in gamba e dritto dritto in data una traversa di legna e te la tu mi dà a me un coriglio solo con la mammocca e te tira di zè andiamo e buh stiamo fino a tempo per a te buia Tore e lui ma io sono un coriglio. Ah, Tore. Ehi. È vero. Tore. E so che tu non è di dove hai stato, mi sono arrivato a fuori. Stai giù sul drone, in piazza. Grazie. No, non l'ho sentito, è quando? Adesso, non l'ho sentito, ma... In piazza. No, sono in cucina, da questa parte, non l'ho sentito. Allora, anch'io lo parli di Marina. Ah, lei chiude, parli, grazie. No, magari non l'ho sentito io qua, se no già si sente. Sto guardando se l'ho troppo. Ma non ammala. Ah, quando loro, quando lo tecchino lagati. Quando voi, cioè quando lo voi non lagati. Quando non lo voglio, mi lagato sempre in mezzo ai bidi. Guardate che non drutto. Ah, il castoro, cos'è, lo scoiattolo sono così scegli. Oh, Lu, porta la graticola domani, ci facciamo un po' di carne, hai detto con l'appartamento. E io, come le porto capocollo, bene qua. E carbone. Sì, Lu, carbone già c'è. Era da me. Decidi Luca Carboni, non va bene. Sì, Lu. Ehi, a Carbonluca. Oh, ia, ia. Otto, tu occupare Gianluca, crocro. Ehi, si funzionava sul caminetto mio. Oh, avevo fatto a velo, a velo. A velo. A velo. E se tu li metti il tubo, lo copri a lui, capito, l'uscita, lo di su. Non lo so se hanno una sacca da fumare, ma non credo, no. Perché due caminetti, una sacca da fumaria. Vale strano. Non lo so. Questo non te lo so dire. Ma comunque, se vuoi lasciare, vedi su. Bisogna vedere, accenderlo per se perde. Sicuramente è crepata la canna a fumare. Magari fate mattoni, perché quelli lì hanno 100 anni. Sicuramente sono fatti a mattoni. Ma che tubo li vorresti mettere? Di plastica? Oh, di plastica. Ma per le stufe, lui. È la miera. Esatto. Da sopra al tetto, avvitato un pezzo con l'altro, come ho fatto qua, fino ad arrivare laggiù. Ma come lo blocchi? Come? Perché poi si blocca giù e si blocca su, nel comino. Ma come glielo blocchi sotto? Bisogna stringere quell'apertura, però bisogna vedere se si tira bene. Incatta, andiamo a catta. E se funzionava si poteva arrostire sì. Sì. Capocollo arrosto, mamma mia. Poi quel capocollo non vi grasso, l'abbiamo visto lì da Carrefour, mamma, ma carità. Era poco grasso, già c'erano dei chili. Ma è caro Carrefour, para su. La cascadeva sta levissima costa. 4,80€, 4€. Allora che ti prego, Carrefour. Luca, un giuraggio in te! Oh, Luca! Chi mi sei scendimi, ma canti voci, mi ragionetto, torna in chi mi sei scendimi, maranno di lattore! Maranno di lassaccarri, ma cosa ci ho fatto di mari, di ricordo una su, settore! Senti, vedi cuscia! Tore! Ma quando riposi, Tore Luca! Libero! Se lo specifichi a chi stai chiamando. Ohia! E qual è quella, Luca? Quella del 19. Ho capito, va bene allora, dai, va bene. Quando ci vediamo? Domani, se ce la faccio, passo io. Passa a casa domani, capito? Quando esci. Ok? Cioè la guardiamo insieme. Beva! Sole Parigi! Tutti morti! Favone! Per carità, l'avete fatto fuggire! Luca, mica te l'ho mandato! Se fai dottore non ti risponde. Tore! Luca Flipper te l'ho mandato anche a te! Ma che altri piazzi hai tu però? La dighi per la giomandata, eh? Già hai già fatto l'affare. Dritto, dritto, è andata la stacciolata. E poco si incatta la brigando Ruggiamma. Mi illumi. Cazzo, si diverte Graziano, si diverte parecchio. A ti romando, Gian Mari. Beh, ha mandato la salsa, non ti preoccupare. Non è pure, va bene. Ti faccio una risatella. Me l'hai già mandato, visto. Capito. Tore, lasciate da pigliare il 50, là. L'ho già visto questo! Si sta facendo i panini con i lombrichi! E quelli non, ci, non servono per pescare, Luca! Che schifo, deve essere un randaggio, un pura di gabbo! Per carità, ma chi sa da prendere la cucina? Cioè Maria, ti rimando un tipo con un panino! Cosa vai? Un tipo con un panino, con la ghigia! Oh no, dopo mi viene la fame, la stressata! E lo stesso ti viene la fame, Luca, ti viene la fame! E lui? Si è fatto un panino! Con chi si... come si chiama di Luca, quelli lì? Luca! E cosa, grazia? Ma siamo in due, Luca, quale chiamate? A Luca, Flip stavo dicendo, quei vermicelli che prendi dalla sabbia per pescare, come si chiamano? Lombrichi. I coreani sono. Però che ci sono più lunghi, anche lunghi ci sono. Che non brinco, che non brinco, che brinchendi, ma io ce l'ha fatto. Si ha fatto un panino, me l'ha posto, cos'è, i succhetti, il maionese, e chi ci sono tutti i vivi, me, te la c'è fuori le gambe, me ogni amore, per carità, tutto tatuato in faccia, deve essere fuori le gambe, grazie le maniere, salvami. Lascia le mangiare, chi se le fa per me? Chi si è malato di salvezza? Oh, grasso che poco è grasso, e parlo un poco di quanto è grasso. Ma che sette mangiare di banini? Puccio ogni schifo, cosa mai non imbiglia un maranno? Luca, manicomio, cosa stai facendo? Oggi tu ti dà a poker. Luca! Eia. Ma... siccome nel profilo di Luca Flip vado a cancellare, a levarne magari video, queste cose così, e non me li cancella. Beh, scritto, non può rispondere a questa conversazione. Scopri di più, come faccio a cancellare? Faccio un bel di mondezza, vaggi. Non lo sai. Figlia l'acciaio, frega, già ce ne cancella. No, secondo me glielo dico, bugà, e poi me lo rimetto, Ma sai, non fa, vedi. Oggi provate tutti i mali, Usciamo, vedi. Sì, invece c'è l'assistenza. Ah va, prugula. E Lu? Sì, no. Non mi fa mandare, capisci? Non me li fa cancellare. Grazie, guarda che non stai uscendo bene. Devi cliccare sopra, evidenzia quello che devi cancellare e poi fa, e ti va il cestino. No, mi esce, adesso io clicco sopra la fotografia, ecco, premo il cestino, mi esce, rimuovi per me, per te, schiaccio, poi esce, annulla, rimuovi, schiaccio, rimuovi e rimane la foto. Rimane lo stesso, non si cancella. E da penso che a Baidenni non posso mandare messaggi dai nomi, da Messenger. A lui non lo posso mandargli niente. Allora vuoi la gomma a cancellarla, grazia? Ehi, grazia, se tu lo usi va. Dai, mi aspetta, arrivo subito. Ehi, sono comprovenni, Sai che c'ho la gomma io, ma cancellare, grazie a voi. Ori, non è chiccione di gomma, non esce. E non posso mandare manco messaggi, va. Dai, non riesce a provare. Ma non penso. Ah, non sarà foto mandata sul Facebook, no. Oh, ha detto premuto, c'è l'assistenza, cosa dice? Esce a vedere e non mi scende. Sì, cerca nella conversazione, cosa dice? Notifiche, esce a vedere. Ora diglielo come si cancella, diglielo tu. Cancella la cancellina, lo vuoi? No, non mi fa mandare neanche se voglio qualche messaggio. Boh, cerca nella conversazione, cosa devo dire? Adesso si accio, cerca a vedere. Boh, e non vuoi scendere. A nulla. Notifiche, sì, cosa vuol dire tu? Cosa? Notifiche, avete scritto notifiche, so ti avete scritto sì. Non lo so cosa vuol dire, aspetta, già sta arrivando Luca lì. Ecco, c'è scritto disattiva le notifiche della conversazione, so ti avete scritto sì. Disattiva le notifiche per un'ora. Beh, provo 15 minuti, quindi cosa mi ci vuole? Ok. Ma se lo vuoi eliminare, schiaccia dove c'è cestino, metti cestino, poi gli dà l'ok. Lo so quello, non l'ho fatto, mi adesso sto riprovando, i sciavili rimuovi. E non cancella, le notifiche sono state già attivate sino, fino alle 19:20 per questa conversazione. E te premo sopra, esce il cestino, rimuovi. Schiaccio, niente, c'è il cestino, rimuovi per te, rimuovi. E rimane sempre la foto, non cancella. Oh, fa una cosa, spegno del tutto spegno, così lo resetti. Spegno del tutto e lo torno a riaccendere. Il telefono? Sì, fa così. Adesso l'ho spento, ma solo a lui me lo fa. Mi rimangono inserite tutte le cose che gli ho mandato io a lui, mi capito? Adesso io le volevo cancellare un po', invece non cancellano, rimane sempre lì. Adesso riaccendo il telefono. Aspetta, lo riaccendo. No, la mattina devi distaccare, sennò non cancella sto. Devi togliere la batteria in modo che ne esca tutti i contatti, capito? Dopo la rimette e è a posto. Ah, non c'è bisogno di togliere la batteria. Basta resettarlo così, spegnendolo e basta. Adesso ero su Messenger, ero lì, l'ho spento, adesso si sta accendendo. E Sciavini è arrivato su Messenger a vedere se ricarica. Adesso guarda, aspetta. Ma chi giù è? Ho merendando, sa. Non lo so, se è ancora in campagna, Non lo so, se c'è gente. Ma va a entrare, io l'ho trovato ieri. Con tutta questa acqua, sì. Non credo in campagna, Se ancora vendeva, di vedersi. Sa sempre più vigilando, Le belebe, però se più vende, capito? Chi c'è va in fondo i macchi? Sono riandato su Messenger, ecco, premo sulla foto, rimuovi, cestino, rimuovi per te, cestino, rimuovi, e non rimuovo niente, rimane romantici. Beh, scritto, le notifiche sono disattivate, sì, vabbè, quello l'avevo fatto io, esci nel rumore. Grazie, vuol dire che si cancella più avanti, si cancella. Vuol dire che nel momento non si può cancellare. Ma c'è la razza di finaggio una vita che non finì più, una gonna manna, ne voglio cancellare un poco. Adesso ne cancello tutto a lui e poi già mi riuscirà a sciabili. Elimina la conversazione, metto. Allora già cancellato. Tanto se mi chiama riesce, no? Cancella tutto, grazie. Cancella tutto e dopo lo riaccendi. Vedrai che dopo riesci a cancellarlo. Cancellare tutto quello che c'è. L'ho cancellato, Adesso vediamo cosa ne c'ha pure. Adesso sto guardando se c'è più giù. Ma mi sa che non vede. Adesso dico, vedi i nuovi. Figlia, se si reinserisce. Figlia, chi è che mi chiama? Allora, per vedere se esce. E no che non verrà giù più. Aspetta un attimo, grazie. Chi era che me l'ha già mente? E chi so? Boh, non lo so. Luca, maricone, neanche con te la matta si cosa è con te. No, non li cancella, non me li cancella vedi le cose che ti ho mandato. Maricomio, ma morbito sì. Ebbene, morti siete. Tore, ah Tore non c'è, Luca. Oh, grazie, io ogni tanto mi lavo, eh. Ah, ti stai lavando, non sta gentile. Ho detto, ogni tanto mi lavo, anche io. Ebbene, stai in chiaura. Te lo dice neanche nel tuo profilo, non cancellano, boh. Non lo so, se lo vedo non lo so cosa dirti, mi sembra strana la cosa, mi sembra strana. Adesso a Luca Pripello l'ho cancellato del tutto, oddio, ho strisciato e ci distrugge l'orruio e ne ha giocato. Adesso per uscirmi mi dovrebbero chiamare su Messenger. Gli ho mandato un messaggio su WhatsApp, boh, non mi ha chiamato. Allora, per ricercarlo su Messenger, ti vai in alto e ti scrivi il suo nome e cognome, te lo ridà. Ah, scrivo in alto nome e cognome e mi riesce. Per vedere se lo cancello così, tutti gli simpreati. Se da Messenger gli hai cancellato la chattata, non ce l'hai più, per cercarlo devi fare così, scrivere anche il cognome e poi ti dà nome e cognome. Già mi è riuscito, deve essere mi ha mandato il messaggio, ecco. Contraccambia il saluto di Gianluca, eia, a vale mando un occhio. Pensa per chi cancella, adesso proprio se cancella l'occhio. Ehi, adesso cancella, meno male, a posto. Solo che c'aveva anche l'altro sito, quello Gianluca Marianini, chi vernicia, cubicatura, adesso c'è solo questo. Se vuoi inserire anche cubicatura, su cubicatura ti inserisci anche quello, rimani un ciao e ti la chattata. Allora scrivo sopra, cerca lì, Gianluca Mariani e boom. Fa cognomi, tu cerca cubicatura ad esempio, no? Ma se no, o con il cognome o con il nome, tanto te lo dà, non è altri, ti dà solo lui e boom, capito? Allora metto dove cerca Mariani e boom. Senza ci devo fare un cognome e tu dovrai affiatare un cognome, boh, non dire il cognome in frequenza. Allora metto Luca, Gianluca Flip, Luca Flip. Flip e Luca. Cosa è vero? Mi manca la cubicatura qua. Ne avevo due, boh! La sua Maria è andata a fare pizza. A mangiarsi l'altra metà del coso. È andato. Ah, bisogna andare a pizza. Yes, yes. Avanti, scrivo cubicatura e clicco a vedere. Se esce. Cubicatura. Ecco, adesso invio. Cucu. So, vediamo. Sì, ce l'ho. Adesso gli mando. Adesso provo a cancellarlo. Vediamo. Cancella. Rimuovi. Non me lo rimuovi lì. Qui siamo punto a capo. Rimuovi per te, rimuovi, niente. Vai su il punto esclamativo, prova lì, cancella, rimuovi, boh, ma cosa uscirà? Cioè, blocca, mi sa. Sul punto esclamativo vai. Sono andato, cosa pongo? Blocca, uscire un blocco. Elimina, non c'è. No, c'è, cerca nella conversazione, notifiche, sì, c'è scritto sotto, ignora messaggi, blocca, c'è un problema, mi dici. Fornisci un pezzo al segnale, la conversazione, io già avuto. Vabbè, io dovrò cancellare, chissà che... Dimmi, lo restriscio, diciamo, vedi? E non striscia. Aspetta. No, no, non striscia nemmeno, c'è prova. Boia! Vabbè, mi tengo giù un disco là, ma se funziona. L'acqua pubblicatura non mi interessa. E beh, Gio Mari, mangiato hai. Beh, io ero un bagnetto io, mi. Che ti ha detto che ero mangiato di suo edito? Luca Maricco mi ha detto, Gio Mari è andato a mangiare, ora è andato a pigliare la 50. Chi dà se ne è andato a faccioca, boh. Tu ne dici, tu eri a mangiare, adesso tu eri a fare pesa. E tu hai trovato i magnetti, eh. Ah, qui sei paolaggio, E chi? Tu sei paolaggio, io ti ho detto che andato a mangiare. Adesso tu è andato a fare pesa. Io Mari, boh, io che vuoi ti morire, io ti incarico così. E lo fai tu, se l'ho sentito io. Oh, Gio Mari è andata a mangiare, non so che cosa, e tu hai andato a fare la spesa, no mangi. Ah, io l'ho detto, ah boh, no, non l'ho detto che è andato in ufficio. Vai da bravo, grazie a loro di cose che non sono, vai da bravo, grazie a me ti crescono le orecchie lunghe. Vabbè, fate da bravo, buonasera. Buonasera, ben sentito. Ma veramente ha detto che sei andato in motoretta ieri col Vespino. Boh. E che è costui che è basso grazia? Dalla voce mi è sembrato Bacchisito. Hai sbagliato, avete avuto Cristian. Ah, ciao Cristian, ben sentito, buonasera anche a te, in compagnia di Luca, Manicomio, Gio Maria, Tore che si è assentato e Luca Flipper che entra quando ne ha furia. Riprenditela. Invece di Luca Flipper, di Luca, conosco io, Lucchetto. E Lucchi ci sono qua, c'è uno del Manicomio e l'altro è un pesce, un Flipper. Già lo so. Ciao Cristian, Ciao cari, tutto a posto, sì. Tutto a posto, niente in ordine. Ma sempre in zona, sì. Ma no, adesso sono andato a casa, che sono tappato la puntura per i dolori. Questo tutto andando a casa. Ah, ho capito, non è muoveggia. Sì, vabbè, cosa può essere? Due denti con la statica, non è nulla, boh. Dai. Però tu stai invecchiando, Ma no, io sono un pirla, perché ho fatto con la sciatica e mi sono blocchetti. Però anche l'età c'è, Cristian, ma tanto è una calmata. Poi lavorare gli altri, ragazzini, quelli di 20 anni, ormai tu li hai superati i 20 anni. Tu hai giocato i piedi di parecchio pure, Io i miei sono 44, adesso mi sento anziano, veramente, va. Sono sempre trombito, non a giocare, boh. 44 ne hai, questa è la mia età, c'hai? Fare il retro, satana. Cristian! Ditemela! Per la chattica, ho visto in TV, in un programma, a poco, questo medico c'aveva un paziente sulla barella, stava facendo vedere come rilassare quel nervo. Gli premeva i due pugni puntati sulla coscia, dove c'aveva proprio il punto doloroso, e li ha premuti per 5 minuti i pugni e gliel'ha rilassato, gli ha alleviato il dolore. Se lo fanno a me mi paralizzano, che lì c'ho genere del disco. Ernie del disco ne ho 5 io, a vedere da vedere le 1, le 2, le 3, le 4 e le 5. Prima erano 3, avanna giù 5. Dai, piano piano è già guarito, non tanto, dai, ormai. Cerca che pesi il microfono. Non devi cercare di non fare sforzi, perché chissà cosa cammina. Io era 1, 2, prima 1 e 2, da voi 3, 4 e 5. Maledette sono, e da bene, un paio di volte quando si punta che tencini vi vuoi germelli attrezzarmi. Io sono forte, ma è un bel fastidioso, è un bel doloroso burro, ma dammi ne peso, tutto colpo. Non l'ho già fatta, bello, e tu invece, tu tra quarantena, Luca. Avvero. Aspetta che metto gli auricolari, sono qua al disturbo. Grazie, ci sei. A te un attimo. Giovanni. Dimmelo. Ah, mi senti, sì? Sì che ti sento. Ehi, allora, ma sono gli auricolari. Ah, no. Vai bene, vai bene. Meglio Maria. Maria mi picchia. E che è questo? Piovendo, ci sta la terra, sta diluviando. Oh, ciucu ciucu. Buonasera comunque, Buonasera anche a lei. Non se ne passa da lei, basta zia. Coccolo. Vediamo un po' se è rientrato Tore. Tore, se lo c'è. Marchisio. C'è Luca, allora, Graziano, il curioso. Ed eccoci qua. Ciucu ciucu. Dimmi tutto. Sì. È la voglia che sta arrivando. Mi sembrava che non mi sentivi. Grazie, faccialo col gomito, già arrivo però. Piovendo salì a Torre. Sì, abbastanza. Che bello che ho fatto scendendo dallo sfio, fammi la spesa, mi sono bagnato tutti i pantaloni da letto. Cazzo. Arrivo qui, ha smesso di piovere, ha detto vaffanculo. Questi giornalisti bisogna avere quei pantaloni impermeabili, cazzo, eccoli si vali. Allora, cosa bisogna fare? Mi pare che me li compro, lo usavo per la moto una volta io, quel tipo di pantaloni impermeabili. Ciao Luca, salutone anche a te. Ma ti sei sposato? No, non mi sono sposato ancora. Mi devo sposare. Perché ho letto su Facebook che hai scritto che ti sei sposato? Cioè, tu mi ho invitato, mamma, una birretta così, un vinello. Mi devo sposare, sto facendo i documenti in comune adesso, capito? Mi sposo in comune. Ci vogliono troppi soldi a sposarsi, dillo a te. Ah, comunque mi pare ci vogliono... Quanto ci vogliono? Mi sembra 200 euro, adesso non mi ricordo bene. Uno, come si chiama, ci vuole un... Vaffanculo, già mi hai capito, un testimone alcolizzato da una parte o dall'altra, in modo che andiamo lì mezzo cotto, becchiamo il sindaco Sanna e ce lo mandiamo a fanculo. Bene, capito lui. Vabbè, è interessante che se ci inviti noi veniamo. Non ti preoccupare, appena capito, faccio, siccome sto facendo la documentazione, appena intanto già c'è l'albo, cioè ti scrivono come si chiama, quando è che devi in pratica l'appuntamento per andare di lì, quindi già ti faccio un bel rinfresco qui, birra, vino, la magna, bistecche, tanto siamo in mezz'estate, si può cucinare tranquillamente fuori. Attore, a me senti. Allora portiamo il cuoco, dai, ci vuole un cuoco lì alla griglia. Chiamiamo Luca, dai, salgo con Luca. Sì, non ci sono problemi, va, possiamo, il cuoco che vuoi, possiamo anche me mangiare qua giù, come si chiama, volendo, a 12 euro, non è che mi costa molto. Capito? C'è primo, secondo e terzo, qui dove c'è il rifornitore, capito? C'è il bar dove si magna, posso anche prendere invitare tutti lì, ci stanno più di 20 persone. Ho capito, vediamo un po', vai, grazie a me se ti ascolta. Antonella, mi senti? Sì, che ti sento. E chi paga se si mangia? Non ho capito, ti mangia? Chi paga, tu paghi e veniamo a mangiare. Allora, secondo te chi paga? Il comune? Anzi, guarda, si potrebbe anche fare con il tuo cittadinanza, se arriva a me, forse, pago col banco, ma intanto paga lo Stato. Oh, si può fare. E allora io, quando andiamo lui? Facci. Che 40? 25. Aprile? Aprile. Risposto maggio, chi è l'amica avanti? Buonasera a tutti. Ciao Marino. Ciao Graziano, ciao Luca. Il 25 maggio, tutti a mangiare. Dopo un mese mi pare che sia un mese, mi sbaglio. Dovrebbe essere roba veloce, dovrebbe essere, ma se non arrivo nessuno mi paga buffo, te ne frega, già. Basta dire con il fornitore a segnare. Taccio. Mandami tutto quello che vuoi, caro, io sono qui, dai, avanti, avanti Giovanni. Maria, mi senti? Certo, un po' bassino, un po' di querelle, ma comunque ti sento benissimo. Sei col gommino, scommetto, no? Chiedimo una cosa, ma apposta l'hai messo con l'apparecchio che si è bloccato stamattina? L'ho sistemato, forse è partito il coso, come si chiama, il commutatore è partito, perché l'ho attaccato diretto e funziona abbastanza bene, non Gio Mari. È partito il commutatore sicuramente, boh. Tutto a posto, tutto risolto, dai. Eia, va bene così, dai. Vediamo un po' se rientra il dottore. Tore, Tore ancora non c'è, riprendi Luca. Luca non c'è. Ah, Tore, riprendi tra tu, dai. Eia, già me la prendo io, non ti preoccupare. Tore non ha gettato ma nulla più. Quindi siamo rimasti in pochi proprio in PMR, ragazzi. Ma era pieno. A proposito di cosa? Nella frequenza 462-125 è tutto pieno di gente che parlami. Con quei papati dei cinesi. Quale frequenza stai dicendo? Antone? 462-125 e li ascolti tutti. Quelli che parlano con quei PMR che stanno vendendo i cinesi. Cazzo, ne hanno venduto minimo la cinquantina, ragazzi. Cosa mi hai detto? 4, 2, 1, 125, così è? 4, 6, 2, punto. Va giù, vabbè. 2, 125. Adesso attacco lo scanner, vediamo, dai. Avanti, ossia. Ehi, a me te lo sto mandando. E te lo leggi e poi mi dai la risposta, come mai? Eia, riprenditela, Luca! Aspetta, Maria, arrivate il tesoro del foto! Sì, stamattina sono arrivate, Gio Maria, l'ho già viste, sì. Mi ha arrivato il messaggio di Graziano, aspetta, mi sto sistemando qualcosa e rispondo subito, dai. Sono nuovi, perfetto al 100%. Va bene. Eia. Hey you. Abbatte, riprendila. Luca. Luca, va caduto, sì. Va, tutti i parigi, insomma, a Torello, riprenditela tu. Io mi assento, vai, Gaccia. Rientro fra 5 minuti. Eia. Ciucu, allora mangiamo i dolcetti. Mangiamo i dolcetti, non scherzetti, dolcetti e basta mangiamo. Dolcetti, i steak, quello che c'è, o pesce, che sui. Adesso appena migliora il tempo. Adesso sto facendo delle documentazioni prima di tutto per me, per mio fratello, per mia nipote, eccetera, eccetera. Appena sono. Ho 2 minuti liberi, vado direttamente lì in comune e faccio direttamente la domanda e poi si vedrà il giorno che mi chiamerà il sindaco. Vado lì, mi metto in minigonna, in calzavette, dico mi voglio sposare. E cosa devo fare? Cosa vuoi fare? Devi andare lì, prendere l'appuntamento, ti dicono quando devi andare. Vai con la carta d'identità, codice fiscale, ti dice il giorno che devi andare, ti piace un abito, insomma un po' elegante, ti dice l'orario e tutto, vai e ti guiva già 10 minuti e tutto fatto. Infatti voglio fare così, almeno sono tranquillo anch'io, capito? Ormai sono già 25 anni come se fossi già sposato, figurati tu, però per essere più sicuro voglio fare quel passo lì. Intanto mi, se non mi è venuto il mese mariano i primi 5 anni di matrimonio, non mi viene più oramai, a vita rimango. Non come certi che rimangono fidanzati 6 mesi, 7 mesi, un anno, dopo un anno si sposano, cazzo, e la prima cosa è che si azzuffano per i soldi, perché fanno così. Tu, io ho lo stipendio mio, tu c'è il tuo, quindi divide. Quando si fa la spesa si divide le entrate e le uscite. Ma cosa dici così? Non ha mai guardato. Quando mi sono sposato io non avevo nulla. Ma avevano i pantaloni innanzi, ma è compreso. Sono andato in comune, mi sono cucuivato, poi sono andato in chiesa, ma lì giocando dove andare, mi hanno fatto fare un corso 6 mesi, che andavo 2 o 3 volte alla settimana in chiesa, la sera. E mi hanno fatto vedere le procedure, come mi dovevo comportare, cosa dovevo dire, tutte queste cose. E dopo quando mi hanno dato l'appuntamento mi sono sposato, sono andato, mi sono cucuivato, gli ho fatto la vecchia, tutto fatto, ma... Ah, quello sì, adesso le cose sono cambiate per me. Ehi, non sai quante gente c'è così. Quando ti conosce, per dire quando sei fidanzato, non ce la fai a conoscerti bene. Una volta che convivi, la bellezza di 25 anni, cioè lei conosce il carattere tuo e tu conosci il suo, il discorso è quello. E quindi le cose si fanno sempre in due, ma c'è certa gente che è ben strana lì. Se tu per dire non c'hai i soldi, non c'hai la macchina, cosa del genere, ti mandano a cagare, hai compreso? Purtroppo è così. Ma quelli lì vuol dire che è gente che si vuol curiovare, fa il tarisso. Uno che proprio si vogliono, non ne guarda di cosa c'è, di cosa non c'è. Ti vivi la vita insieme a lei, come hai vissuto fino adesso, 25 anni, grazie a Dio. Ora di Napoli. Quella gente fuori di testa, cosa, per carità. Allora io dovevo mandare, sì, la piscina mia va via di là, o tanti a mare, mi la puttia, sai, come viene la vita, devi pensare a quello, l'importante è che insieme si sta bene, si collabora, si va di chi su di bene va, poi basta, non c'è altro da fare. E certo, tu, il maschio si deve impegnare più della donna, devi cercare di garrare sempre di più a casa, capito? Appunto per quello, è così, ma c'è un sacco di gente che dopo che hai capito divorzia per questioni di solamente di soldi e cose del genere, capito? Tutto lì, quindi è un casino, adesso io sono antico, quindi sto bene così come sono. Se non mi voglio va a fanculo, già c'è Maria Mano, diceva quello, solo c'è Maria Pausa, ma sta andando al centro storico con 20 euro, 30 euro, 50 euro, voglia che ne trovi di ragazze. Poi magari si innamorano di te e poi ti sposi, come è successo parecchie volte lì al centro storico. Sai quanti ne ho conosciuto di quelle lì? Che una volta che hanno trovato un tipo magari che se le porta a casa eccetera eccetera, dice guarda, se vuoi parlare la vita con me mudi quella volo lì e sei tranquilla. Ne ho conosciuto parecchie di quelle e ho visto che stanno bene. Acciappano il bollo, acciappano preso, avanti grazie. Ehi, Marino, non è questione di acciappare il bollo, io ne conosco parecchie che pure ti ha fatto una vita, eppure si sono sistemati oggi in Stati Uniti, e non è questione che trovano il pollo, è questione che magari tu vuoi e sono compatibili, si vuole e si guida. Poi secondo che non ne guarda cosa sì, cosa non sì, se sei innamorato non ti ne ha fatti nulla, compreso, e che tu vieni su coppie così, no, non c'entra niente, è quello male. Se due si vogliono, può aver fatto 30 anni di carriera, essere un più delinquente, che ti piace, però se a una donna gli piace, e piace all'uomo, poi va, chi su che ti piace, ci rimangono lo stesso insieme. Pigliare quelle coppie, per esempio, che pigliare i golf e i mulini. Quello già è vero, quello già è vero, l'amore è cieco, quando due stanno bene va bene così, dopo uno abbia fatto la carriera o lei abbia fatto altre cose, non c'entra nulla, taglia tutto e rimangono insieme, basta così, avanti Antonè, allora fra poco ci siamo, dai, fra un mese qualche spicciolo andiamo avanti al comune, ci sono io, Il 25 che giorno capita? Il sabato, Antonè? O in domenica? Mi penso il sabato. Guarda, a posto di prendere la macchina in affitto a fare un giro con le scatole, guarda, è meglio che vieni con quella con la macchina che usi tu. Io mi metto dietro, capito, con le scatole agganciate, poi ci facciamo un giro a Sassari, nel camion della Mondezza. Va benissimo, hanno giudicato, Antonè, non c'è problema. Però ne portiamo 3 o 4, abbiamo fatto i disegni questi sul camion, sui fianchi, abbiamo disegnato un po' di roba, dai. Quando sei pronto avverti e io avverto i colleghi e veniamo appresso a te, dai. Ti agganciamo a te la signorina e su che andiamo. Bene, bravo, grazie. Aspetta un attimo, sto dando la risposta. E ok, non c'è problema. Così è Antonè, così è la ora, dopo 25 anni. Ascolta, che giorno capita il 25, il sabato o in settimana? Non lo so quando sono, devo ancora prendere il coso, l'appuntamento con il sindaco, capito? Sto facendo la documentazione più che altro per Giampiero, per mia nipote e cose del genere, capito? Appena ho 2 minuti liberi, penso, devo fare anche la questione del ticket di esenzione, perché l'altra volta io sono andato con la storia, non me l'ha voluto fare, dice di avere 100% di validità, mi ha detto, e invece oggi mi ha detto uno, dice guarda, dice vai con le fotocopie, il foglio ISO, dice, e ti fai fare l'esenzione, mi ha detto, capito, una volta fatto quello poi vado lì in comune, mi presento, dico guarda, mi vorrei sposare, vorrei l'appuntamento con il sindaco, eccetera eccetera. Poi mi comprerò un paio di jeans belli, una bella maglietta, una bella camicia, quello che è, con la faccia che ho. E poi prendo, mi sposto, ci vorrà un 4 da 20 minuti, poi prendo e mando a cagare il sindaco. E già non ti sposa, non preoccupate, che c'è l'altro funzionario, non preoccupate, anzi, neanche lo vede il sindaco, quando tu vai a fare a chiedere documenti. I documenti te lo danno uscire all'ingresso o al protocollo, vai, ti dà il foglio, ti prepari un paio di documenti, poi vai, ti danno il giorno, vai, ti scusi, e così via. Già è roba veloce, va. Non so se Tore è entrato, Tore? Poco, ma ci vuole modello ISO per fare l'esenzione. Sì, così mi ha detto Gavino. Ha detto di andare con foglio ISE e la fotocopia del cattedrale codice fiscale tuo, e se sei con la tua 25 se convivete porti anche quello, capito? Basta che ci sia anche lei nel foglio ISE, non è obbligatorio che sei sposato, hai capito? Basta che convivi. No, io sono 25, no, sono a casa io, cosa 25. E vabbè, io pensavo che lo facessi, che cioè in pratica come me che stavi convivendo tutto lì. Comunque mi ha detto di portarti in pratica il foglio ISE e la carta d'identità e il codice fiscale tuo, basta. E ti fa l'esenzione, non dici senza dire niente, sono venuto a farmi l'esenzione del ticket, lui dici. Perché non è possibile più, se io devo fare una visita dermatologica, cazzo, ma ti pare devo spendere 20 euro, 66 centesimi per guardarmi e dirmi se stai neanche a toccarmi, aspetti che quando ti pigliano dopo, ti do un'altra crema, ti passi quella, poi ci vediamo fra 15-20 giorni, così sono altri 20 euro e 66 centesimi, non lo saranno. Ragazzi, io chiudo, ciao Antonello, ciao Luca, ciao Marino, ciao chi è in ascolto, buonasera a tutti, ce la risentiamo domani se coincide, ciao, riprenditela Luca. Ciao, grazie, saluti, dai, saluta Paoletta anche da parte di Maria, buonasera, a domani, ciao. È ricambiato. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, un minuto di bianco per me, arrivo subito. E Antonio, scusa, mai dal telefono. Grazie. Luca. Marino, mi senti? Sì, che ti sento, sono tutti spariti. Pocuglio si è sentato, boh. Grazie, mi sta facendo una basta, io già tutto fatto. Domani si è sentato, vediamo se c'è Tore, se è entrato. Tore? Tore, squalo, niente a fare. Bacchisio non c'è? Bacchisio idem, nulla a fare. Graziano? Graziano neanche. Ciupe ciupu? Antonello. Ah, Luca, sono tutti spariti, eh? Al telefono è Antonello, ha detto, Mari. E adesso forse mi è arrivato il messaggio, riesci a leggerlo là? Aspetta un attimo. Eia, chi è entrato? Nessuno è entrato. Ehi là, che chiudo là, era accesa ancora qua. Mi devo fare il Eia, tanto che troppo con compagnale. Domani si travaglia. Ebbene, non sei contento di travagliare. Magari mi andate a travagliare e me lo divissuto. Invece devo rimanere in occhi, in galera. Ci vedi come grazie a... Ci mancherebbe. Guarda che io me la stavo un bel prima per andare a lavorare. Non mi pareva io. Tutto il giorno fuori di casa, non va che vinciamo pura. Però mi ripeto il zero, Manzano, grazie a... Per quella faccenda, ok, non preoccuparti, appena c'è due minuti che c'è, devo sai che lavoro stavo facendo, sto sostituendo un altro collega che è ricoverato, dunque faccio, sto facendo un doppio coso, appena c'è due minuti mi avvicino, ti avverto e così via, ok. No, io mi alzo alle 3, grazie, alle 3 di mattina, faccio le 3, il tempo di farmi la doccia, poi faccio colazione e ci esco alle 3:30, 4:20 da casa, capito? Ogni giorno, ma mi capita anche la domenica, anche se non lavoro, diciamo. Sempre, l'orario è sempre quello, avanti, abitudine. Anche io quando ero lì in comune, arriviamo sempre prima che vivi, perché una volta che c'è l'abitudine, fini mesi, intanto fini anche la domenica, lo stesso mi bisognava il suo orario. Oramai una volta si è abituato, ma... E poi non mi coricavo, manco la sera. Oramai ero abituato a quelle ore lì. Va bene, ciao! Ciao, grazie, ci sentiamo, là, chiudo anch'io, dai, che mi stanno chiamando. Ok, ciao, grazie, ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltoni, cuore di per me, dai. Ciao Marino, ciao, alla prossima, ciao. Ciao Luca, ciao.